con l'idea assassina che dovevano pareggiare il conto contro quattro innocenti della Democrazia Cristiana, quindi per cui non solo io siamo stati gambizzati, l'onorevole Nadir Tedeschi, poi c'era Eros Robiani ed Emilio De Bono, che erano, sono gli altri tre sfortunati che hanno subito questa esecuzione di rappresaglia da parte delle Brigate Rosse. Gli anni seguenti, dopo questo attentato che ha subito, per lei come sono stati? Sono stati tragici, perché fra l'altro io sono stato un po' il gambizzato più iellato d'Italia, perché nei guai della diciamo gambizzazione, come nel caso del povero di Nolfi a Genova, dove questo rigurgito di neoterrorismo ci lascia molto preoccupati anche come associazioni, perché la violenza e il terrorismo in Italia non sono state del tutto estirpati, perché c'è sempre una vasta area di consenso politico, soprattutto nell'estrema sinistra, che in un certo senso quasi giustificano ancora la lotta armata o proteggono i Black Bloc o tantissimi altri gruppi di anarchici insurrezionalisti. Un brodo della violenza esiste tuttora, e uno pensa che anche gambizzando le persone le cose siano semplici, invece ci sono delle gambizzazioni veramente sfortunate. Faccio anche l'esempio di Castellano di Genova, visto che purtroppo il terrorismo sta riprendendo e cominciando ancora da Genova, oppure Rossi, che era un giornalista della Rai TV, e persone come me che ha, anche quando sono gambizzati, non si tratta sempre di fratture, perché se spappolano ad esempio la rotula, il ginocchio, uno resta sciancato per tutta la vita, o quelli che hanno avuto anche la lesione o del nervo sciatico o la recisione delle arterie. Quindi uno che già subisce la lesione del nervo sciatico o di una sola arteria, che debbono fare la ricostruzione di un bypass, questi sono già dei casi limiti, dei casi sfortunati di gambizzazione. Io purtroppo ho avuto la sfortuna di avere sia la lesione dell'arteria di poplite alla gamba sinistra, poi ho avuto anche la lesione dell'arteria tibiale alla gamba destra, e nello stesso tempo lo spappolamento del nervo sciatico che mi hanno portato. Quindi nessun gambizzato ha avuto contemporaneamente tutti questi guai, per cui ho dovuto fare due bypass alle gambe. Mi hanno salvato le gambe andando a Brescia, dove sono stato operato lì con la microchirurgia a Brescia, perché all'epoca neanche Milano aveva il settore della ricostruzione, diciamo così, delle arterie, e quindi mi sono salvato miracolosamente attraverso questi interventi chirurgici, e da allora soffro di ischemia muscolare, ho la gamba sinistra in plegia, faccio piaghe, fistole, ulcere in continuità, per cui ho fatto ben 34 interventi chirurgici per evitare l'amputazione degli arti. Quindi, per cui effettivamente uno pensa che la gambizzazione sia una sciocchezza, invece ci sono delle gambizzazioni veramente sfortunate che lasciano dei segni permanenti di invalidità per tutta la vita. Quindi per fortuna il caso Adinolfi di Genova è una gambizzazione che non avrà conseguenze di invalidanti per l'attività futura di questo responsabile amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare. Ecco, poi per non parlare dello stress post-traumatico, perché quando uno, non parliamo dell'angoscia, della solitudine, della sofferenza in cui si trovano le vedove e gli orfani, quindi, perché è indicibile narrare la loro sofferenza, ma per dire anche per quanto mi riguarda, io ho sempre la continuità, ecco, di avere questi dolori, che sono dolori di circolazione del sangue, che si chiama distemia muscolare, ed è come avere alle gambe la rivoluzione permanente di Mao Zedong, perché sono fitte, formicolie, grandi bruciori, e li ho costantemente da 32 anni. Era Italia in Controluce, torniamo domani mattina alle 6.30 su Radio 24 con un reportage di Raffaella Calandra sull'esito elettorale e soprattutto guardando al boom del Movimento 5 Stelle.